in primo piano. In primo piano c'è naturalmente il meeting di Rimini e l'intervento del primo ministro Mario Monti. Monti, vedo la fine della crisi e una generazione di giovani che sta pagando troppo. Questi i punti che vengono raccolti oggi dalle tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola, e naturalmente c'è spazio anche per l'invito montiano sui termini evasori fiscali. La RAI dice non li chiami più furbi. Insomma, Monti lancia un segnale di ottimismo intervenendo al meeting di Rimini. Dice: è un momento difficile, ma vedo vicina l'uscita della crisi. Il Presidente del Consiglio è preoccupato per i giovani. Un'intera generazione, dice, sta pagando un conto salatissimo. Duro invece sugli evasori. Nei suoi servizi la RAI non dovrebbe più chiamarli furbi. Monti infine definisce un miracolo politico l'appoggio al governo da parte dei tre partiti maggiori. Monti, dunque, la ripresa in qualche modo della stagione politica dopo la fine, dopo la settimana a cavallo di Ferragosto, è per il Corriere della Sera, dunque, l'apertura. Così come Repubblica, che sceglie invece proprio la parte vicini all'uscita dalla crisi, diventa il suo titolo d'apertura e anticipa già un fondo a firma di Francesco Merlo. Siamo un popolo di santi, navigatori e furbi. Ci torniamo tra qualche momento. Arriva la settimana più calda sotto quella che appunto invece parla di Monti e dell'intervento al meeting di CL. Dicevo, arriva la settimana più calda per la stampa di Torino, dove tra l'altro c'è una foto davvero interessante, nel senso che mentre si racconta come oggi sull'Italia arrivi la settima ondata di calore consecutiva dall'Africa, dicevo, la foto descrive una spiaggia affollatissima, così a primo colpo d'occhio pensiamo a Rimini nel momento di massimo splendore. In realtà è la spiaggia di Zandvoort in Olanda, presa letteralmente d'assalto in questo fine settimana, perché le temperature bollenti riguardano anche il Nord Europa. In Italia i reati tornano a crescere. Il Sole 24 Ore del lunedì, avete sentito nell'anticipazione appunto durante GR24, dopo tre anni si inverte il trend: furti in appartamento a quota 204.000, un ritorno che si anticipa dalle prime righe, dalla prima pagina del Sole, un ritorno spiegabile in parte con la crisi economica, tant'è vero che sono proprio i reati di tipo predatorio a manifestare gli incrementi maggiori anche a due cifre. I furti delle abitazioni sono dunque aumentati del 21%, arrivando a quota 205.000. Crescita analoga per le rapine, con i negozi che hanno sostituito le banche come bersaglio. Dunque i reati tornano a crescere in Italia, un approfondimento che poi andremo appunto a esplorare con più attenzione, ma anche l'indagine sul disagio imprenditoriale, la mappa delle difficoltà che intralciano le imprese. PMI, troppi ostacoli in campagna, in coda anche Basilicata e Marche, Trentino, Alto Adige il più virtuoso. La crisi, dunque, vicino all'uscita dalla crisi, il virgolettato sempre del Premier Monti per il Messaggero, ma a centropagina anche ampio spazio a Assange e alla sfida che lancia ad Obama, chiedendo fermi la caccia alle streghe. Dunque Assange interviene dal balcone dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra e appunto chiede a Obama di fermare la richiesta, peraltro mai formulata, bisogna dire, che appunto dagli Stati Uniti pende su Julian Assange, per ovviamente le rivelazioni fatte da WikiLeaks. Il Giornale, la bufala della nuova DC: Casini e C vogliono ricreare il centro, ma non siamo più negli anni 50, loro sono quattro gatti, il tentativo è morto in culla. Tutto questo appunto per gli incontri svolti a Trento, e la posizione del Giornale è sinteticamente definito nell'occhiello che è colpi di sole. Ma naturalmente, dico naturalmente perché è seguito da tutta la settimana, c'è sempre spazio per per il tema scorte, lo scandalo della casta, Fini va al mare anche d'inverno e la sua scorta ci costa il doppio. Le guardie del corpo in albergo fuori stagione a prezzi più alti. Quindi una fotografia di Fini a centro pagina e lo scandalo della casta che anticipa nuove rivelazioni appunto sulla vicenda. Nel taglio basso intanto Berlusconi ha pronto il discorso del ritorno. Ci sono nuovo nome del partito e linea guida del congresso, il test a Villa Certosa di fronte a 70 ospiti. Dunque il cavaliere in campo secondo il giornale. A proposito di scorte la foto d'apertura principale del giorno che racconta la maglietta milionaria. Di che si tratta? È il cosiddetto caso Calderoli. La maglietta milionaria era quella anti-Islam esibita in TV che rese allora il ministro un potenziale bersaglio. Allora appunto Calderoli era ministro. 8 agenti di guardia alla villa fino a ieri, scorta ridotta ieri, costava 450.000 euro l'anno. Tutto questo nel giorno in cui si conclude il Ramadan e il quotidiano ricorda invece le polemiche nell'ultimo giorno. Ramadan, gli islamici censurano scuola. Ecco qua, ancora invece per quanto riguarda le aperture del secolo XIX, anche qui diciamo la cornice è quella dell'intervento di Monti a Rimini, ma anche un preoccupante articolo sulla violenza a Genova per il secolo XIX, appunto quotidiano genovese, l'alcol padrone della notte. Genova ucciso a 21 anni a calci e pugni. Morire a 21 anni ucciso da un coetaneo in una serata all'insegna dell'alcol, ai margini della zona dove un'ordinanza ne vieta vendita e consumo, ma dietro la tragedia ci sarebbe anche una vendetta. L'omicida arrestato accusava la vittima di aver fatto catturare gli autori di un accoltellamento. Questo nella prima pagina del secolo XIX. Ancora l'Unità, crisi più Stato nel mercato. L'Unità scrive: la recessione rompe un tabù liberista. Dopo l'intervista di Susanna Camusso si apre un dibattito sull'ipotesi che quote di aziende in difficoltà vengano acquistate da soggetti pubblici. L'Unità è anche, devo dire, uno dei pochi quotidiani, c'è qualche richiamo, ma insomma mette in vista la notizia in morte di un disoccupato. Il titolo è: Angelo Di Carlo è morto all'alba di ieri nell'ospedale romano Sant'Eugenio, reparto Grandi Ustionati. Pochi giorni fa, la notte dell'11 agosto, si era dato fuoco davanti a Montecitorio e, avvolto dalle fiamme, si era scagliato verso l'entrata del Parlamento per protesta contro il suo stato di disoccupazione. Da anni lottava con la precarietà. Nello zainetto che aveva con sé c'erano due lettere, una per il figlio, a cui ha lasciato 160 euro. Allora, vediamo infine vediamo dal Gazzettino, il Gazzettino che appunto ampio spazio al duplice omicidio a Lignano, i coniugi sgozzati in casa trovati dal figlio, la coppia era appena rientrata da una cena, i sospetti di un commerciante che non li aveva visti aprire il negozio. Dunque un caso davvero brutale di violenza che racconta un duplice omicidio a Lignano. Infine, per la nostra così primo passaggio sulle prime pagine, la Gazzetta dello Sport racconta gli scambi d'estate, lo scambio tra Milan e Inter e quello di Cassano per Pazzini. Si fa, confermate le nostre anticipazioni, scrive la Gazzetta dello Sport, le due società stanno trattando, l'unico nodo rimane il conguaglio, i nerazzurri chiedono 10 milioni, Galliani per ora ne offre 7, la sensazione è che si troverà un accordo. E anche naturalmente la notizia del calcio giocato, quello del trofeo Berlusconi, vince sempre la Juve, Pogba che sorpresa, Matri in gol, meglio di Pato, Allegri si consola con Robinho, rossoneri da rivedere e Berlusconi non va alla premiazione, bianconeri senza Buffone e Pirlo si impongono per 3-2. Allora, adesso direi, visto che abbiamo segnalato anche in particolare era dalla stampa, come siamo entrati in quella che è prevista come la settimana più calda dell'anno. Pensavo di venire qui a prendere fischi, invece sono io a fischiare. La battuta del premier Mario Monti quasi al termine della sua visita al meeting di Comunione e Liberazione la dice lunga sul clima comunque di affetto che si è creato tra il professor Monti e il popolo cellino. Nello specifico, la battuta arriva quando a Monti viene consegnato dal presidente delle Ferrovie Mario Moretti il fischietto per dar via simbolicamente al nuovo Frecciarossa, ma l'accoglienza era stata calorosa fin dall'arrivo all'ingresso principale della fiera di Rimini. Applausi ad ogni apparizione in pubblica, applausi ad interrompere per 9 volte il suo intervento al termine dell'inaugurazione della mostra dedicata al tema i giovani e la crescita. Vero che i cellini, scrive Elisabetta Soglio oggi nel primo piano del Corriere della Sera, dicevo, vero che i cellini hanno sempre riservato attenzione ai propri ospiti. Era accaduto, per citarne alcuni, con Romano Prodi, con Silvio Berlusconi lo scorso anno, col presidente Napolitano. Ma questo non è un pubblico addomesticato o addomesticabile, garantisce Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, e credo che di Monti i nostri giovani apprezzino la lezione di serietà, di realismo, di rigore, oltre che la sua capacità di ascolto e la sua grande attenzione con la quale ha seguito la mostra. Così conferma Marco Erroi, studente del 5° anno di economia in Cattolica, uno di quelli che insieme ai compagni e ad alcuni docenti ha preparato la mostra del meeting e che ha accompagnato il premier nella visita, rivolgendogli poi una domanda al termine dell'intervento. La mia sensazione è che il presidente sia rimasto colpito dal metodo con cui è stato fatto il lavoro. Abbiamo realizzato una serie di video per raccontare storie di persone che, malgrado la crisi, si sono messe in gioco, persone che hanno costruito un progetto di impresa che ha funzionato. Il presidente ha seguito, ha fatto domande, poi lui stesso ha raccontato alcune di queste testimonianze. Insomma, storie scambiate, storie raccontate e naturalmente le frasi che il premier ha dedicato ai giovani e alla crisi, nella crisi, che è una generazione che lui definisce appunto una generazione perduta, sta pagando, quindi una generazione perduta che sta pagando troppo. E a proposito di lavoro e di contenuti, il lavoro oggi è al centro di diversi approfondimenti. Il Sole 24 Ore, che appunto si occupa da un lato degli ostacoli al fare impresa con un'indagine sul disagio imprenditoriale, si occupa anche di occupazione e di come gli under 25 siano impiegati soprattutto in certi settori tra virgolette di nicchia, o almeno in una parte della settimana. Così nelle pagine interne, a pagina 17, Francesca Barbieri racconta il lavoro di notte o nei weekend. Italia quarta in Europa per la percentuale di under 25 impiegati di sabato. AAA cercasi operatore per servizio di sicurezza non armata e investigazioni in strutture balneare, possibilità di turni in tutte le notti anche nel fine settimana. Insomma, basta una veloce indagine sui siti di recruiting online per trovare annunci di attività da svolgere in tempi asociali, quando la maggior parte degli altri lavoratori dorme o si riposa. E non è un fenomeno legato solo alla stagionalità, d'estate aumentano le offerte fuori orario nel turismo, eccetera, ma un trend più strutturale, certificato dal Centro Studi Data Giovani, che ha messo sotto la lente le statistiche dei dipendenti in Italia e in Europa al lavoro di sabato, domenica, la sera o di notte. Ecco dunque che emerge come il nostro paese è quarto nel ranking dell'Unione Europea per la quota di under 25 impiegati il 6° giorno della settimana. Sono circa 400.000 nel 2011, pari al 40% del totale dei dipendenti tra i 15 e i 24 anni e oltre 7 punti in più rispetto alla media europea. A superarci solo Grecia, Olanda e Inghilterra. Insomma, se per il lavoro domenicale ci sono diversi stati con percentuali più alti, facciamo comunque di più rispetto a Germania e Francia. Nel notturno siamo allineati all'UE, mentre è minore l'attività negli orari serali. Tutti i dati che vi ho anticipato, li trovate oggi sul Sole 24 Ore, appunto tabelle e racconti di questo lavorare di notte o nei weekend per gli under 25. Di nuovo sul tema del lavoro e i dati europei, oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, l'anomalia italiana, lavora solo uno su tre, persi 450.000 posti. Ora andiamo, diciamo, al dato generale. I dati europei raccontano così: in 6 anni è caduto il PIL. Secondo Eurostat, gli occupati nel nostro paese sono attualmente 450.000 in meno che nel 2007, quando esplose quella che allora si chiamava la crisi del subprime. Oggi in Italia, su una popolazione che l'Ufficio Statistico Europeo valuta in 60,8 milioni di persone, in base alla definizione dello stesso ufficio, ne lavorano 22,3 milioni e una quota del 36,8%, superiore solo a quello della Grecia. Nello stesso periodo la Germania ha creato il 6,3% dei posti di lavoro in più. Ecco dunque, anche in questo caso, dunque, ampio spazio alle tabelle, alle informazioni che mostrano come appunto gli occupati in rapporto alla popolazione all'interno dell'area euro siano appunto ormai offrano dati molto diversi, che vedono in cima il 49% in Olanda, seguiti da Austria, Germania, Gran Bretagna ed Estonia, in fondo Francia, Irlanda, Spagna, l'Italia e poi appunto la Grecia. Ecco, oggi l'economia italiana somiglia a una piramide rovesciata, scrive Federico Fubini oggi sul Corriere, la cui base, formata da chi produce, si restringe sempre di più. Se si eliminasse l'apporto degli stranieri, tra i quali svolge un'attività una quota più elevata di persone, circa il 44%, quindi di fatto una quota che, come dire, in quanto tale mette la partecipazione straniera nei primi 5 posti europei. Dicevo, se si elimina appunto l'apporto degli stranieri, emergerebbe che i cittadini italiani effettivamente al lavoro sono poco più di 1 su 3. Una delle ragioni di fondo della base stretta della piramide è l'età media decisamente elevata della popolazione. L'italiano di mezzo, quello più giovane della metà della popolazione e più vecchio dell'altra metà, oggi ha 43,8 anni. È uno dei livelli più alti al mondo, con il Giappone 45 anni e la Germania 45,3. La Germania, che però ritroviamo con una quota di occupati oltre il 47%. E dunque è opportuno approfondire su questo aspetto. Dice: nel frattempo, per l'effetto delle riforme di Arz, riforme che sono state avviate 10 anni fa, Arz è il nome appunto del capo della commissione ex vertice di Volkswagen, nell'economia tedesca lavora il 47% della popolazione totale, a dispetto della quota di capelli bianchi più elevata che in Italia. Questo segnala che una delle cause di fondo della sproporzione italiana tra chi lavora e chi no è nelle regole. In Germania si attraggono sempre di più persone verso l'impegno professionale, mentre in Italia è successo il contrario. Ora resta da vedere quale sarà l'impatto della riforma Fornero. Infine, si fa poi sentire anche un'ulteriore ben nota anomalia italiana. La partecipazione delle donne al lavoro è tra le più basse dei paesi avanzati, e questo è un dato assoluto che incide pesantemente su questo appunto risultato complessivo molto serio, molto basso. Eccoci dunque, visto che parliamo di lavoro, occupazione, vale la pena segnalarvi subito, tornando così al Sole 24 Ore, la vita dura per le PMI. L'agenda all'interno appunto degli spazi dell'agenda per la crescita, la mappa delle criticità che oggi viene aggiornata da Andrea Biondi, e sulle 24 ore nelle pagina 7 il disagio imprenditoriale. Viene presentata una classifica delle regioni in base al mix di 12 indicatori sulla criticità del contesto economico, e così nel disagio elevato, disagio superiore alla media, disagio medio, troviamo la mappatura, una nuova mappatura del nostro paese, e il disagio più elevato si concentra tra Campania e Calabria. È una delle regioni più dinamiche dal punto di vista imprenditoriale, con imprese leader in vari settori che vanno dagli elettrodomestici alle calzature alla meccanica, ma quanto a disagio imprenditoriale anche le Marche sono messe male e sono al terzo posto, scrive Andrea Biondi. Dall'altra parte l'Abruzzo si distacca dal gruppo dei territori del sud per posizionarsi come quarta regione d'Italia in cui fare impresa risulterebbe più semplice. Sono tra i risultati più curiosi e meno scontati restituiti dall'indagine sul disagio imprenditoriale redatta dalla Fondazione Impresa. Per individuare i territori in cui fare impresa e più che altrove un'impresa, sono stati miscelati 12 indicatori, dalla variazione di imprese attive tra le microimprese, al tasso di sopravvivenza delle aziende a 5 anni, fino all'impatto della recessione, al credit crunch, alla dotazione infrastrutturale e di banda larga. Ecco, questo naturalmente solo un assaggio dell'approfondimento che viene poi accompagnato da un'intervista al presidente di Confindustria Campania, Giorgio Fiore, che dice: zavorrati da fisco e da burocrazia. È davvero così difficile fare impresa in Campania? E Fiore risponde: più di quanto emerga da questa indagine, visto che non prende in considerazione la fiscalità. E già, come vi dicevo, questa indagine indica davvero la grande difficoltà di fare impresa nel sud, in Campania, in Calabria in particolare. Bene, per quanto riguarda invece, diciamo, il calendario, abbiamo parlato di Monti, delle difficoltà nel settore occupazione e impresa, e naturalmente il tutto inquadrato in quello che è la cornice dei rapporti europei, delle operazioni di salvataggio e di stabilizzazione dei mercati. Oggi sono diversi commenti che registrano come quantomeno certe preoccupazioni legate agli attacchi speculativi del mese di agosto sembrano essere superato. Intanto, come dire, l'attualità è tutta lì, è tutta sul tavolo: tagli in Grecia, vertice, missione, ecco i 10 giorni più lunghi di Eurolandia, di settimane lunghe, di momenti critici, di periodi lunghi. Ne abbiamo registrati parecchi, tant'è ne abbiamo un'altra che è questa settimana lunga, appunto, che ci porta oggi, da oggi che ad Atene ci sono incontri per la definizione dei tagli al bilancio greco da 11,5 miliardi e tutta una serie di incontri che arrivano in questo caso fino al 29 di questo mese per la bilaterale tra Merkel e Monti. Questa mattina, scrive Valentina Conte, le borse apriranno nel segno dell'attesa, pronte a decifrare i messaggi che arriveranno sul piano politico da una serie di importanti incontri bilaterali tra i leader europei. Sullo sfondo la richiesta di proroga greca per risanare i conti e il no tedesco e lo scontro tra aperturisti e rigoristi. La tregua agostana ha fino a qui consentito di rifiatare. La tempesta perfetta non si è per fortuna materializzata e la febbre da spread è decisamente calata. Dopodiché i temi rimangono tutti sul tavolo, quindi Atene, Madrid, ma anche la missione di Juncker in Grecia, gli incontri, molti sono i bilaterali nella prossima, anche in questo caso solo in questa settimana: Merkel Hollande, Samaras Merkel, Samaras Hollande, e poi abbiamo detto Merkel e Monti il 29 del mese. Dunque, prima di tornare ai grandi titoli d'attualità e in particolare alla vicenda WikiLeaks, vi segnalo, ripresa da molte testate in edicola, la storia di Samia, dalle Olimpiadi alla morte su un barcone. Lo sport a volte salva, scrive Emanuele Audisio su Repubblica, ma la vita più spesso condanna. Non basta correre, non serve a partecipare. Se vuoi un futuro, o almeno provarci, devi traslocare i tuoi sogni in un'altra geografia. Partire, dunque, emigrare senza una corsia, da clandestina verso un traguardo che non dà medaglio e toglie il respiro dall'affanno per la gara a quello per la esistenza stessa. E così appunto Samia, già portabandiera della nazionale somala alle Olimpiadi del 2008, morta su un barcone mentre cerca di raggiungere l'Italia, l'Europa, cerca di fuggire dalle condizioni, dalla infinita guerra civile della Somalia. Una storia che appunto viene raccontata oggi con ampie fotografie, la storia dell'atleta somala che morì su un barcone diretta in Sicilia. Dicevamo, il caso Assange, dunque il capo di Wikileaks nell'ambasciata dell'Ecuador, secondo il Corriere della Sera, secondo Fabio Cavalera, come un consumato attore, Julian Assange ha predicato per qualche minuto dal balcone al primo piano dell'ambasciata ecuadoriana a Londra, quindi quel suo intervento al balcone viene definito una predica d'attore consumato. Obama, fermi la caccia alle streghe contro Wikileaks. Assange ha mirato il bersaglio grosso, che è Washington. Ha esaltato l'Ecuador, che si è schierato dalla parte della libertà di pensiero, e contro gli Stati Uniti. A proposito di questa vicenda, vi voglio segnalare due contributi, due pareri che riguardano il caso Assange. Il primo è un'intervista che troviamo oggi sul Messaggero a Ray McGovern, che Anna Guaita ci presenta come qualcuno che per oltre 30 anni ha conosciuto i massimi segreti del governo degli Stati Uniti, poi prima dell'esercito, poi per la CIA, qualcuno che ha servito i presidenti americani da Kennedy a Bush senior, e ogni mattina presentava loro il rapporto dell'intelligence nazionale. Insomma, qualcuno che di segreti, i segreti li ha maneggiati per qualche decennio. E la domanda è: lei crede davvero che gli USA vogliano estradarlo? McGovern risponde: sì, certo, c'è un gran giurì riunito da mesi che deve stabilire i collegamenti tra Assange e il caporale Bradley Manning, che li ha resi noti, che ha appunto passato i documenti segreti, e per incriminarlo intendono ricorrere all'atto sullo spionaggio, una legge vecchia 100 anni. È una scelta stiracchiata, ma non ho dubbi che vogliano provarci. E dunque è grave il danno causato da Wikileaks alla sicurezza degli Stati Uniti? No, risponde McGovern. Quando vennero fuori i primi dispacci, tutti gridarono che il paese era a rischio. Poi lo stesso Robert Gates, capo del Pentagono, ammise che si era fatto un gran polverone per nulla. Ma allora perché questo accanimento contro Manning e Assange? Contro Manning, spiega appunto McGovern, perché è un soldato che ha tradito la parola data. Naturalmente io credo che nel suo caso ci siano attenuanti. Manning ha sentito il dovere morale di rendere pubblici documenti che avrebbero portato alla fine di una guerra ingiusta, e per questo lo stanno punendo con una reclusione durissima che nei primi 10 mesi è stata addirittura crudele. Quanto ad Assange, direi che si tratta di dargli una drastica lezione per evitare che ci siano altri casi di pubblicazione di materiale segreto. Questa dunque l'intervista a Ray McGovern oggi sul Messaggero. Ma sullo stesso tema invece c'è un altro aspetto che riguarda in questo caso invece la Svezia e la rabbia di Stoccolma, che dice l'estradizione negli Stati Uniti, Julian Assange dice solo falsità. Così si esprime, dopo, uscendo un po' dal tradizionale riservo, il ministro degli esteri svedese Carl Bildt. Cosa accade? Dunque, il sentimento che appunto domina in Svezia è quello di sdegno, risentimento e rabbia, dove l'opinione pubblica al completo si sente offesa dalle accuse ingiuste che il capo di Wikileaks lancia contro un paese noto per il suo collaudato sistema democratico e per la trasparenza del suo apparato giudiziario. Insomma, Assange accusa sostanzialmente la Svezia di prestarsi a un gioco americano e quindi di volerlo processare per una vicenda che non ha niente a che fare con il caso Wikileaks, ma per reati sessuali nei confronti di due donne. E l'accusa di Assange è di essere, diciamo, il tassello disponibile per gli Stati Uniti di una triangolazione che poi porterebbe all'estradizione appunto negli Stati Uniti. Carl Bildt Invece il ministro degli esteri smentisce, rifiuta questa ipotesi, dice la Svezia non ha mai estradato nessuno sul quale possa pendere, sia pure teoricamente, la minaccia di una condanna a morte. Per questa ragione Assange getta ingiustamente del fango sulla nostra nazione, rinnegandone la tradizione umanitaria, dimenticando così che per quanto riguarda proprio gli Stati Uniti, che noi fummo i primi ad accogliere e a proteggere i disertori durante la guerra del Vietnam, rifiutandoci di riconsegnarli alle autorità americane. Insomma, gli svedesi non ci stanno, le accuse di Assange, dice, sono completamente infondate, sono accuse che insultano il popolo svedese e poi vanno sullo specifico della richiesta appunto di processare Assange di Stoccolma. L'avvocato Claes Bergström, che rappresenta le due donne svedesi vittime rispettivamente di stupro e delle gravi violenze sessuali di cui è accusato Assange, dice: l'agire di Assange è da vigliacco, le mie clienti sono rimaste deluse e amareggiate dal suo meschino tentativo di sfuggire alla legge rifugiandosi presso un'ambasciata. Esse, cioè le accusatrici, le vittime di questa vicenda, non desiderano altro che porre fine all'intera vicenda con un processo dal quale emergano fatti e responsabilità. Soltanto così potranno dimostrare al mondo intero di non essere coinvolte in una congiura contro WikiLeaks, ma di essere invece le vittime di una superstar che credeva di poter abusare di loro a suo piacimento. Insomma, la forte reazione dalla Svezia. Staremo a vedere. Questo riguarda appunto il caso Assange dopo l'intervento dal balcone londinese dell'ambasciata dell'Ecuador. Ritorniamo in Italia e ritorniamo a parlare di scorte. Vi dicevo che oggi il giornale riparte da una fotografia di Fini, lo scandalo della casta, e dice: Fini va al mare anche d'inverno, la sua scorta ci costa il doppio. QN invece, quotidiano nazionale, è la maglietta milionaria al caso Calderoli, scorta ridotto, costava 450.000 euro l'anno. Al lavoro 8 agenti ogni giorno, presidio deciso dopo la t-shirt satirica. Alla notizia lui ci ha scherzato su, ci racconta oggi appunto nel primo piano il giorno. Sono tornato un uomo libero, dice, a tutti è stato abbassato di un grado il livello di sicurezza e trovo che sia giusto, aggiungendo però un attimo dopo di provare ancora qualche preoccupazione. Potrebbe arrivare qui un kamikaze e farsi saltare in aria come a Milano nel 2009. Ecco, così parla l'ex ministro, senatore leghista Roberto Calderoli, a cui il 13 agosto è stato tolto il presidio fisso delle forze dell'ordine davanti alla sua villa sui colli di Mozzo, zona residenziale alle porte di Bergamo. Il servizio vedeva impegnati ogni giorno 8 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, suddivisi a coppie su 4 turni di 6 ore ciascuno per coprire tutte le 24 ore. Costo complessivo dell'operazione in 2 anni 900.000 euro. La vicenda invece scorte per quanto riguarda il presidente della Camera, come vi dicevo oggi è l'apertura, occupa ampio spazio della prima pagina per il giornale. Scorte, l'inverno di Fini ci costa il doppio, anche fuori stagione le sue guardie del corpo alloggiano a Orbetello, ma in un albergo con prezzi molto più alti. 9 agenti di polizia assegnati alla scorta di Fini, le guardie del corpo lo seguono anche in vacanza e così 80 euro il prezzo a notte di una stanza all'hotel di Orbetello che dal 2008 ospita la scorta di Fini. C'è spazio per altre segnalazioni. Il PD Cimitile, il presidente Democrat va al mare in auto blu da Benevento a Cosenza. Lui dice è una normale, come dire, modalità di lavoro. Racconta: sono stato impegnato tutto il giorno in Regione Campania per un incontro urgente e poi sono andato alla mia casa al mare. Non avendo altro modo per rientrare nella mia residenza estiva, mi sono fatto accompagnare. Ha aggiunto in una nota: se questo è un reato, mi rimetto alla decisione della magistratura. Insomma, il tema delle scorte ancora forte in primo piano. Eccoci qua, siamo verso la conclusione. ripassiamo magari insieme quelle che sono le principali aperture. Vi dicevo, in Italia i reati tornano a crescere, dopo 3 anni si inverte il trend. Il Sole 24 Ore racconta appunto i numeri sui reati in Italia, così ci spiega che si tratta di un ritorno inspiegabile in parte con la crisi economica, e tant'è che sono proprio i reati di tipo predatorio a manifestare gli incrementi maggiori anche a due cifre. Due pagine di classifiche a pagine 2 e 3 oggi: Milano e Rimini restano ai vertici per il peso dei reati. Gli incrementi, però, gli incrementi percentuali più elevati si registrano in Emilia, Romagna e Toscana. Milano, Rimini, poi Bologna, Torino, Roma, Genova, Prato, Ravenna, Firenze, Imperia. Questa nella top 10, quelle top 10 in cui uno non ci vorrebbe mai essere, dell'incidenza appunto dei reati. Pagina 3 invece una foto, come dire, inquietante, che è quella di un'ombra armata di un piede di porco intorno a un'abitazione. Record di furti in casa, borseggi per strada. Anche nei reati l'Italia rischia di tornare indietro, come nelle statistiche sull'occupazione o sui consumi. Il consuntivo 2011 evidenzia infatti un peggioramento, con un aumento del 5,4% rispetto ai 12 mesi precedenti. Dunque, con questo noi concludiamo. Sono le 7:57, aggiornamenti da GR24. Noi torniamo a sentirci intorno alle 8:20. A dopo.